Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ben ritrovati a Cuore e Denari. Allora Nicoletta, ci ritroviamo insieme con i nostri esperti e soprattutto con i nostri ascoltatori, e io ribadisco un po' quello che è il nostro spirito: dispensare sempre consigli utili per la vita di tutti i giorni, la salute, il portafoglio, e sono sempre consigli gratis e preziosi. Esatto, ma sai perché specifico questa cosa? Non è perché voglio fare la maligna, ovviamente. No, certo. Perché oggi ci rivolgiamo a tutti quegli ascoltatori, ma soprattutto a tutti i telespettatori, quindi anche se non andiamo in onda in televisione noi e trasmettiamo da una radio, parliamo di quei telespettatori che abitualmente si sintonizzano su un canale televisivo con l'obiettivo di seguire un programma commerciale e acquistare qualcosa. Noi siamo abituati a chiamarle televendite. Il termine però oggi è di gran lunga superato, e poi vi spieghiamo perché. Quello che possiamo dire senza troppi dubbi è che questa modalità di vendita da un lato e di acquisto dall'altro non è affatto sulla via del tramonto, anzi sembra proprio vivere una nuova stagione di successo. Allora, i dati parlano chiaro, noi ve li racconteremo tra un po', ma intanto voi al numero verde cominciate a raccontarci se avete mai acquistato un prodotto tramite una televendita. Come vi siete trovati? Lo fate abitualmente? Lo avete fatto di recente? Cosa vi spinge a questo tipo di acquisti? Allora, perché mi sono lasciata ispirare per fare questa trasmissione? Perché sono andata a vedere domenica il film Joy, che è il film dedicato alla donna che ha inventato un prodotto di grande successo, forse ognuno di noi ce l'ha in casa, il Miracle Mop, il mocio per i pavimenti che si strizza da solo, e lo ha consacrato al successo proprio grazie alle vendite televisive su un notissimo canale americano che ha anche una filiale italiana. Allora noi oggi vi racconteremo questo mondo, quindi mano alla cornetta, 800 24 00 24. E a proposito di invenzioni, Deborah, sono andata a ripescare una frase però di Agatha Christie che, insomma, mi ricordavo, ma insomma, calza pennello, andiamo. Non credo che la necessità sia la madre delle invenzioni. Le invenzioni, a mio parere, nascono direttamente dall'inattività, probabilmente anche dall'ozio, forse addirittura da una certa pigrizia, per risparmiarci fastidi. E indubbiamente il mocio ha evitato fastidio, o meglio, posizioni molto fastidiosi. Pensa che fatica e che scomodità, Deborah, lavare i pavimenti carponi, modello Cenerentola, no? Esatto. Non che a lavarli in piedi sia una passeggiata, ma rende, se teniamo le gambe leggermente piegate, dicono gli esperti, e ci ricordiamo di alternare le braccia, oltre che l'igiene della casa, ci potrebbe guadagnare anche il tono di cosce e glutei, che non è male. Insomma, questa divagazione mi permette di introdurre il tema della seconda parte della puntata, in cui non parleremo di pavimenti ma di posizioni, quelli che assumiamo durante la giornata. Vado subito a specificare. Allora, voi passate più ore in piedi o seduti, chiamateci, raccontateci se il vostro lavoro vi costringe a passare ore e ore alla scrivania o in macchina, oppure, come nel caso degli addetti alle televendite, in piedi. Due esperti si occuperanno di noi, del nostro apparato muscolo scheletrico, della nostra circolazione, e quindi chiamateci se la vostra schiena vi dà problemi, se avvertite formicolie, punture di spille, se vi sentite un po' arrugginite, e questo è il vostro momento. E a proposito di invenzioni, se nutrite il sogno di inventare qualcosa, il mocio l'hanno già inventato, ma insomma c'è spazio, un'invenzione, qualcosa che cambierà la vostra vita, iniziate ad alzarvi dalla sedia. Sembra infatti che la posizione verticale illumini. Churchill, Dickens, Hemingway, Einstein e Mark Twain hanno avuto le più grandi illuminazioni professionali proprio mentre lavoravano in piedi. Deborah, proviamo ad alzarci un po' anche noi, perché chissà no? Mai. Beh, molti conduttori radiofonici fanno la trasmissione in piedi, ecco. Ci sono quelli che vanno in onda appunto su alcuni canali, sui loro canali televisivi. Vorrà si dire qualcosa. Sono... Esatto, cominciamo anche noi. Vabbè, magari ci proviamo. Intanto andiamo con Cuore e Denari di stamattina. Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. A proposito, mi chiamo Joy. Allora, è uno stralcio brevissimo, ma qualcuno di voi l'avrà riconosciuto. È il trailer di Joy, un film che è nelle sale proprio in questi giorni, diretto da David O'Russell. Racconta la storia di Joy Mangano, progettista di casalinghi, star delle televendite, interpretata da Jennifer Lawrence. Joy è ispirato alla sua vita, racconta soprattutto il momento in cui questa donna, con una condizione familiare molto difficile, inventa proprio tenacemente il suo primo prodotto di grande successo, il Miracle Mop, un mocio per i pavimenti che si strizza da solo, nonostante appunto la sua famiglia un po' complicata non riponga alcuna fiducia in lei, anzi tenta di ostacolarla. In ogni modo, è una storia di imprenditoria al femminile molto interessante anche nella filosofia Cuore e Denari, che racconta il successo di Joy proprio attraverso un importantissimo canale di home shopping americano, QVC, che da 5 anni è presente anche in Italia. Allora, per parlarvi di questa realtà, io mi sono lasciata proprio incuriosire da questo mondo vedendo il film, abbiamo scelto di invitare stamattina il dottor Paolo Penati, l'amministratore delegato di QVC Italia. Dottor Penati, per chi magari non si fosse mai imbattuto sul vostro canale, lo dico anche all'italiana, QVC. Va bene, dottor Penati, buongiorno. Esatto. Buongiorno a tutti. Però vi piace di più chiamarlo all'americana, corretto? Sì, assolutamente. QVC, anche se l'acronimo, il significato delle tre lettere è qualità, valore e convenienza, dove per convenienza gli americani intendono la possibilità di accedervi in qualunque momento della giornata. Quindi in americano, adesso scusi che stavo facendo anche la traduzione letterale statunitense, quality, value e convenience. Perfetto, quindi sì. C'è stata proprio la modalità, è stata proprio, come dire, fortunata la coincidenza di poterlo tradurre letteralmente anche in italiano utilizzando le stesse lettere. Allora, naturalmente la prospettiva da cui osserviamo questo fenomeno è prima di tutto quella del consumatore. Abbiamo invitato anche un'altra ospite che ci aiuterà a ricordare i diritti dei consumatori in questi casi, gli aspetti a cui fare attenzione per fare sempre scelte d'acquisto consapevoli. Buongiorno a Monica Valente, giurista di Altro Consumo, benvenuta. Buongiorno a grazie. Tutti, grazie. Inizio con qualche numero. Sotto gli occhi un articolo di un anno fa esattamente del collega Marco Mele del Sole 24 Ore che si intitolava proprio "Le televendite battono la crisi". Sono pochissime, sono tra le pochissime televisioni con bilanci in attivo, non sono emittenti che vendono ascolti e palinsesti agli inserzionisti, quanto un canale alternativo alla distribuzione commerciale a livello nazionale. Sono 3 i soggetti sul mercato, l'unico italiano è Media Shopping, la società di Mediaset, c'è il colosso americano QVC e il gruppo tedesco Home Shopping Europe. Il costo medio dei prodotti messi in vendita da Media Shopping è di 100 euro, gli acquirenti che si rivolgono alla TV di Mediaset hanno un'età media intorno ai 36 anni con maschi e femmine che si equivalgono. Potrei raccontare tanto altro, ma vorrei raccontare invece della società che abbiamo qui con noi questa mattina, QVC Italia, dottor Penati. Che numeri ci racconta? Allora, diciamo che per fare un paragone con i numeri che ha appena citato, la nostra clientela è prevalentemente femminile, circa l'85-86% è femminile, il prezzo medio degli acquisti dei prodotti che vengono venduti è intorno ai 40 euro. Sono prodotti che spaziano dal mondo della casa, sia della cucina che del tessile per la casa. Prodotti di beauty, quindi trattamento e make-up, colore in generale, prodotti di abbigliamento e accessori e prodotti di gioielleria, anche se in effetti potremmo parlare più di fashion jewelry, certo. Quindi di quella alta bigiotteria di una volta. Andate in diretta 17 ore al giorno, dottor Penati, non lei ma naturalmente tutti i suoi collaboratori, e siccome poi parleremo anche dello stare in piedi a lungo, ecco che insomma una televendita mediamente per un prodotto quanto dura? Poi so che lei non piace utilizzare questo termine e specificheremo la modalità corretta per descrivere certo. Le modalità di vendita di cui parliamo questa mattina, ma è anche questo un aspetto interessante perché interessa molto il nostro cuore e la nostra salute, dottor Penati. Ha a cuore anche il benessere dei suoi dipendenti che si occupano di questo, ovviamente. Assolutamente, in effetti è vero che andiamo 17 ore in diretta continuative, tutti i giorni, sabati, domeniche naturalmente, feste comprese, quindi 364 giorni all'anno, però naturalmente le persone si alternano, ci sono turni di lavoro che sono stati fatti proprio per consentire alle persone di dare un po' il meglio di se stesse e poi naturalmente di riuscire a presentarsi e non dover soffrire quando fanno il loro lavoro. Certo. 5 anni di attività in Italia, in questo periodo avete spedito qualcosa come 5 milioni e mezzo di pacchi, i prodotti spediti sono stati più di 11,3 milioni, insomma questo per dare tanto un po' i numeri anche di questo fenomeno italiano. Ci diceva, dottor Penati, anzi lo dicevo io, ce lo specifichi meglio lei, che la parola televendita ormai è tramontatissima, no? Il termine non è più calzante, allora come dobbiamo definire esattamente? veramente questo modo di distribuire commercialmente tantissimi prodotti? Poi ci interessa anche capire che tipo di prodotti appunto vendete, se aiutate anche le aziende italiane a farsi conoscere. Allora, iniziamo dalla prima domanda: perché non più televendita? Perché di fatto siamo ormai una piattaforma multicanale di shopping, quindi la televendita era ovviamente concentrata sul mezzo televisivo, oggi c'è un'integrazione tra il mezzo televisivo e internet che è sempre più la modalità preferita dai consumatori. Spesso con il fenomeno che viene definito in inglese del second screen, quindi del secondo schermo, che è quello appunto di internet, che viene normalmente meno legato al computer tradizionale ma molto più al tablet, quindi mentre magari si guarda la trasmissione televisiva si va a controllare sul tablet, sullo smartphone, certo, le caratteristiche del prodotto che sto vendendo, magari facendo anche una comparazione di prezzi, perché poi non dimentichiamo che il compratore, l'acquirente, il consumatore deve fare un acquisto consapevole e ragionato, quindi la convivenza di questi due strumenti, che a volte vivono per conto loro, per cui c'è comunque un volume rilevante di operazioni, di transazioni che avviene su strumenti elettronici, quindi come dicevo sul computer, sui tablet, sugli smartphone, si affianca a quella del mezzo televisivo. Allora, adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo il traffico. Dottor Penanti, vi chiedo un minutino di pazienza, poi continuerò naturalmente a sentirla sulle peculiarità anche di questa attività e anche sulle peculiarità che ha il canale italiano rispetto a quello americano, che sia come si è adeguato alle necessità dei consumatori appunto del nostro paese. Poi sentiremo suggerimenti delle associazioni dei consumatori e sentiremo anche gli ascoltatori che sono pronti a raccontarci se hanno fatto l'acquistone del secolo attraverso queste piattaforme. 800 24 00 24, il numero verde come sempre a vostra disposizione, vi aspettiamo tra pochissimi istanti. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta Cuore e Denari. Un ben trovato a tutti dal vostro Giorgio Mastrota. Vi voglio parlare oggi di un'azienda italiana, una bella realtà italiana. Ben ritrovati! Approfittate. Giorgio Mastrota è davvero un'icona del mondo delle televendite. Lo salutiamo con affetto. Una garanzia. Un grandissimo professionista in questo campo. E abbiamo avuto anche il disastroso caso di Vanna Marchi, per carità, in Italia, no? Però poi magari torneremo a ricordarla, anche quello, come dire, un episodio che ormai speriamo di aver cancellato dalla storia della TV. Detto questo, dottor Penati, amministratore delegato di QVC Italia, è vero che si tratta un po' di star, questi presentatori naturalmente hanno delle capacità comunicative straordinarie e io mi sono un po' così divertita a guardare alcune delle, tra virgolette, televendite che proponete, hanno, a parte le proprietà di linguaggio straordinarie, ma sono capaci queste presentatori e soprattutto presentatrici di descrivere nel minimo dettaglio ogni prodotto, veramente di stare a parlare magari di un prodotto molto semplice per ore, come le formate tra l'altro, dottor Penati, oppure insomma è un talento naturale? Io non riuscirei a vendere una stufa a un eschimese, quindi ma che ne sai, racconti. Ma magari adesso andiamo a fare un provino, ho un ventilatore a QVC, che ne dice Africa. Dottor Penati, quanto è importante sicuramente... anche ecco. Perché per esempio del mocio ovviamente è stata la stessa inventrice del prodotto a dover andare a raccontare, perché in realtà nella storia del film si dice che il conduttore non rendesse abbastanza l'idea, non fosse sufficientemente motivato nel raccontare bene questa, la qualità del prodotto. Naturalmente non sarà sempre così. Ma no, allora innanzitutto devo dire che la cosa che il film riesce a trasmettere è un po' il modello attuale attraverso il quale noi proponiamo le vendite, cioè c'è sempre o quasi sempre l'interazione tra il presentatore e quello che chiamiamo ospite. L'ospite è lo specialista del prodotto, ecco. È colui che arriva dal produttore stesso, può essere l'inventore come nel caso del film Joy, può essere il designer per prodotti di fashion, quindi per prodotti di abbigliamento, di gioielleria, di accessori, può essere un responsabile commerciale che conosce molto molto bene non soltanto il prodotto ma anche come usarlo, quali sono le caratteristiche tecniche, cosa aspettarsi dal prodotto, perché una cosa che è molto importante e che cerchiamo sempre di, prima parlava della formazione di queste persone, poi torniamo su queste persone perché hanno dei profili veramente interessanti. Sì, quello che è molto un successo incredibile. Io le ho viste ad una sfilata a Milano e sono veramente trattate da star, da tutte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa che ho visto, dottor Penati, sono rimasta letteralmente sbalordita, piacevolmente naturalmente, insomma un bel mondo interessante. Guardi, una cosa che cerchiamo di insegnare, perché questo è veramente il nostro modello, è di non esagerare, di non fare eccessiva pressione, raccontare quello che il prodotto fa, che cosa aspettarsi da un prodotto senza mai andare oltre quello che è la realtà. Con molto realismo e naturalezza. Con realismo, perché poi chi lo riceve a casa non deve mai essere deluso, contento di quello che riceve. Esatto, non deve mai essere deluso. Il nostro modello si basa su un continuo acquisto da parte dei clienti. Mediamente i nostri clienti comprano 20-24 prodotti all'anno, che vuol dire che è una fidelizzazione che naturalmente si basa sulla soddisfazione. Guardi, ce lo stanno raccontando i nostri ascoltatori, glieli faccio sentire direttamente che sono diventati quasi teledipendenti da questo punto di vista. E poi insomma era interessante la questione che ci spiegava il dottor Penati del tandem che si forma in TV fra lo specialista del mezzo televisivo e lo specialista del prodotto. Maria Luisa dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua collega e al signor Penati. Ci dica, allora lei acquista in TV? Sì, io acquisto in TV. Io acquisto perché a me personalmente non piace tanto andare nei negozi. Sì, mi piace andare nei negozi, ma magari guardare, ma non mi piace provare così. E con questo modo di comprare io mi trovo bene, sia da QVC sia anche da altre emittenti. Abbiamo trovato anche la testimonial. Visto? Maria Luisa, qual è l'ultima cosa che ha comprato? Guarda, se glielo dico si spaventa. L'ultima cosa ieri sera, ecco, un cardigan ho preso. Cosa c'è di male che sorride così? Insomma, adesso quando le arriverà, Maria Luisa se lo prova, fa la foto, ce lo manda. Ecco. Il coso bello di queste organizzazioni qua, la cosa un giorno o due arrivano. Certo. E poi tu, se non sei soddisfatta, perché tu magari lo vedi lì sulle indossatrici che sono bellissime. Certo che stanno bene a tutti. Le indossatrici sono bellissime. Però magari su di te fa un altro effetto. E allora lì, esatto. Se andassi in un negozio l'avrei anche tenuto tanto, invece così mando indietro. Uno si guarda da solo senza. Grazie Maria Luisa. Gli occhi giudicanti della commessa. Esatto. Dottor Penati, prenda Maria Luisa. Assolutamente. Altro che. Assolutamente. Volevo sentire altro consumo. Sì, è stata carina. Aspetti un attimo, dottor Penati, perché sennò qua Monica Valente di altro consumo, a parte che la sentiremo a lungo dopo le 11, perché rimane lei con noi, perché appunto Paolo Penati deve lasciarci. Ma intanto qualche primo spunto che viene in mente ad un'associazione appunto dei consumatori da così condividere con i nostri consumatori all'ascolto, dottoressa Valente. Un mondo ricco che è diventato decisamente post Vannamarchi, estremamente serio, per molte aziende lo era certamente anche prima, poi le derive ci sono in tutti i campi, ma insomma due suggerimenti al volo da dare ai nostri ascoltatori che magari anche incuriositi da questa trasmissione da domani cominceranno anche loro a frequentare il mondo delle tra virgolette televendite, che non dobbiamo più chiamarle così, Valente. Sì, è vero che insomma si trova di tutto un po' in TV così come su internet, canali come QVC sono sicuramente affidabili, ce ne sono magari altri che lo sono un po' meno. Allora noi consigliamo sempre ai consumatori di verificare innanzitutto il rapporto qualità-prezzo, ecco, che sia comunque in linea con gli standard di mercato, perché è chiaro che se si punta sul guadagno, però se il guadagno è esagerato insomma diventa anche sospettoso. E poi soprattutto anche la trasparenza delle informazioni che vengono dati al telespettatore, che comunque deve poter risalire all'identità del venditore, alle condizioni di vendita, gli devono essere garantiti tutti i diritti che la legge gli assicura, quindi il recesso, la garanzia. Esatto, allora ci soffermiamo su questi aspetti dopo le 11 con lei, Monica Valente rimane con noi, gli ultimi 40 secondi di tempo li assegno appunto a Paolo Penati per raccontarci la tipologia dei prodotti che mettete in commercio, che mettete in distribuzione, dottor Penati, appunto, questi prodotti da dove arrivano, intermediate anche prodotti che arrivano da aziende italiane. Io 2 o 3 volte mi sono imbattuta appunto nelle vostre vendite. Ho notato per esempio che ci sono anche distributori, aziende americane che vengono sul canale italiano a raccontare un po' le loro cose, ma aiutate anche il Made in Italy naturalmente. Ma guardi, tenga conto che metà dei prodotti che vendiamo, quindi il 50% dei prodotti che vendiamo è prodotto in Italia da aziende italiane, poi in qualche caso sono magari aziende italiane che hanno una produzione anche da altre parti, però sono di aziende italiane. Diciamo che spesso abbiamo fornitori esteri perché sono dei comparti commerciali che vengono sviluppati magari di più in altri mercati. Se prendiamo per esempio il caso del beauty, dei trattamenti di bellezza, è proprio un mercato che nasce o in... poi magari alcune produzioni sono fatte anche localmente, però i marchi sono marchi principalmente americani o comunque esteri, quindi lì gioco forza non è che non siamo interessati, è che veramente il mercato è fatto da questo dottor operatore. Penati, devo per salutarla perché invece... no, purtroppo devo salutarla perché sennò mi chiudono la diretta. Torneremo ad invitarla, insomma, abbiamo avuto il piacere di averla con noi e si immaginava quanto avrebbe mai immaginato quanto questo film avrebbe fatto parlare di voi, ha visto, no, quali sono poi le modalità con cui un'azienda può farsi conoscere. Grazie per essere stato con noi, a Paolo Penati, amministratore delegato di QVC Italia. Adesso dobbiamo dare la linea al giornale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Parliamo di Scioli Panci un minutino, grazie. 97 possibilità di utilizzare l'integratore alimentare per perdere 5 kg in 7 giorni. 3 al sole! 100.000! Contemporaneamente perdere anche la cellulite! 10 kg in 3 settimane! 20 kg in 6 settimane. Se vuoi togliere la pancia, da metà pava. D'accordo? L'abbiamo fatta risentire tutta. Siamo partiti con la storia virtuosa di Joy Mangano nelle sale cinematografiche in questi giorni, proprio dove possiamo vedere il film Joy, che racconta la storia di questa imprenditrice americana che è diventata tale dopo molte difficoltà, tanti ostacoli anche frapposti dalla famiglia. Si inventa il mocio con il quale lavare i pavimenti senza naturalmente toccare questo straccio, quindi il sogno in quel momento di tutte le casalinghe. Come riesce a far conoscere Joy Mangano il suo prodotto? Attraverso una televendita, almeno in quel momento si continuava ancora a chiamare così, attraverso il più celebre canale americano QVC. Noi abbiamo raccontato la storia di QVC Italia poco fa con l'amministratore delegato, ma naturalmente l'occasione è stata anche quella per fare il punto della situazione su queste modalità di fare shopping, come funzionano in Italia, e stiamo raccogliendo le vostre testimonianze. E adesso naturalmente c'è lo spazio dell'Associazione dei Consumatori con Monica Valente, giurista di Altro Consumo, alla quale racconteremo altri casi e lei ci darà naturalmente dei suggerimenti per tutelarci qualora il prodotto non rientri nella nostra piena soddisfazione. In realtà, dottoressa Valente, la questione che emerge anche dalle testimonianze dei nostri ascoltatori è che in realtà questa modalità di compravendita diventa quasi una dipendenza. Non vorrei davvero dover affrontare fra qualche tempo un problema di altro genere per i nostri consumatori, ma insomma, che ne pensa anche di questo aspetto che è emerso poco fa? Beh, devo dire che insomma sono una porta aperta, perché anch'io sono abbastanza addicted alle vendite. Ah, confessa online, così proprio l'altarino. Devo confessare che... Ma naturalmente lei ha uno sguardo professionale su questo mondo. Ma lo faccio anche un po' appunto per testare. Certo. No, anche perché Altro Consumo in realtà il successo delle sue inchieste deriva proprio anche da prove dirette sul campo, certo, no dottoressa Valente? Esatto. Acquistiamo prodotti e verifichiamo che anche in caso di recesso tutti i diritti del consumatore siano rispettati. Sul nostro sito trovate tutte le nostre inchieste, i nostri test e i nostri consigli. Allora, dicevamo, televendita non è più il termine adeguato. Oggi parliamo di piattaforme in cui la diretta televisiva, lo shopping online si integrano. Raccontiamo ancora qualche caso di qualche ascoltatore, qualche storia. Ferdinando dalla provincia di Oristano all'800240024. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, che cosa ha comprato di recente? Allora, io di recentissimo niente, due o tre anni fa ho preso delle pentole antiaderenti. Ah beh, sì, perché poi insomma la batteria di pentole è il grande cavallo di battaglia di queste modalità di vendita. Cioè, i coltelli che mi diceva Nicoletta, microfoni spenti, e poi Ferdinando si è trovato bene, ha avuto delle cattive sorprese? No, no, benissimo, soddisfatto, rimborsato. In che senso? No, nel senso che tutto quello che mi hanno detto nella cosiddetta televendita è risultato vero. Allora, Ferdinando, a lei è andata bene, pentole, soddisfatto della qualità anche del prodotto. Adesso sentiremo anche Rita dalla provincia di Vicenza. Vedo, a proposito di batterie, una batteria di interventi degli ascoltatori che vogliono raccontarci che a loro è andato tutto bene. Ma raccontateci anche se avete avuto delle esperienze negative, se avete fatto fatica ad esercitare il diritto di recesso. Dottoressa Valente, allora, guardiamo una televendita, il prodotto che ci viene presentato ci piace, facciamo la prenotazione, entro due giorni mi pare di capire il prodotto arriva in casa. Allora, se non ci piace, quali sono i suggerimenti dell'associazione dei consumatori per appunto rimandarlo indietro? Che tipo di diritti abbiamo in questa circostanza? Se il problema è semplicemente che il prodotto non ci piace, possiamo restituirlo, perché al consumatore è garantito il diritto di recesso per le vendite che appunto vengono effettuate a distanza, come le televendite, è perché appunto il consumatore non può testare con mano, le vede realmente solo una volta che gli vengono recapitate a casa. Quindi entro 14 giorni da quando gli viene consegnato il prodotto ha diritto di esercitare il recesso, quindi di comunicare la propria volontà che insomma quelle pentole o quello che ha acquistato non le vuole tenere. A questo punto, entro i successivi 14 giorni, deve restituirle al mittente, quindi le deve rispedire al venditore, oppure sarà il venditore che si occupa del ritiro del prodotto e poi addebita le spese per la restituzione al consumatore. Dopo parleremo anche delle spese di spedizione e di rispedizione. E dentro i successivi 14 giorni da quando appunto viene comunicato il recesso, il venditore deve rimborsare il consumatore. Che cosa c'è da precisare sulle spese di spedizione? C'è da precisare che sicuramente il venditore deve rimborsare anche le spese di spedizione iniziali a seguito di recesso, quindi deve restituire il prezzo del prodotto più le spese di spedizione ed eventuali costi accessori che appunto ha addebitato al consumatore. Le spese invece per restituire il prodotto al mittente a seguito di recesso sono a carico del consumatore, se il venditore lo specifica. Cioè il venditore può anche decidere di farsene carico lui, però ha anche la facoltà di addebitarla al consumatore, certo. Però lo deve specificare, perché se non lo specifica le deve pagare lui. Infatti, quindi allora mediamente, camillo, esatto, diciamo, in queste vendite nel riquadro televisivo ci sono tutte le indicazioni necessarie per fare un acquisto consapevole, sì. Fare anche esercitare eventualmente un diritto di recesso nella piena consapevolezza. Però se l'informazione in questo caso non è chiara, allora intanto l'acquisto si fa attraverso un contact center, me lo dicevano anche i signori di QVC, per cui anche lì, sentendo direttamente l'operatore, si possono chiedere i dettagli, certo, del funzionamento di, certo, questo, quindi non andiamo a scatola chiusa. Dopodiché, se la procedura non è chiara, non è trasparente, non è detto che dobbiamo per forza procedere all'acquisto finale. Rita dalla provincia di Vicenza, benvenuta. Ciao ragazze, ciao Nicoletta, ciao Deborah. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Allora, io volevo darvi una mia testimonianza. Sì. Nel senso che, scettica il 1000 per 1000, 5 anni fa ho cominciato a comprare su QVC. Allora, sapete cosa faccio io? No. Io guardo, intanto la mattina guardo su internet il palinsesto e guardo l'orario dell'ora del brand che a me piace. Poi si organizza la giornata, va a fare la spesa, poi quando c'è la vendita che le interessa ritorna a casa. Poi mi piace, lo prendo, ritorno su internet che l'ace proprio c'è il rifacimento di quell'ora lì, per cui fanno vedere i particolari, questo e quello. Comunque io vi dico che in 5 anni avrò reso 10 cose. Quante ne ha comprate cosa però? È importante, ragazze. No, Marita, quante ne ha comprate in 5 anni? Perché se ne ha rese 10, su quante? Ascolta, su 15? Mi sono data un budget di 100 euro al mese. Ah, vabbè, quindi brava, al mese. Al mese. Al mese. Però devo anche dire... fare proprio un grande abbraccio al call center di QVC. Vabbè. Ci sono questa mattina veramente è un messaggio promozionale, più un spottone a questo canale televisivo non potevamo Rita. Farlo Rita, però mi raccomando, ecco. Dalle 10:30 alle 12 non c'è QVC QVC o come c'è volete chiamare denari. C'è cuore denari, vendiamo quindi. Niente, solo una gran chiacchiera e molto contenuto, consigli, per cui mi raccomando Rita. Grazie Rita. Allora, dottoressa Valenta, adesso a parte il diritto di recesso, effettivamente darsi anche un budget è una buona indicazione che un'associazione dei consumatori può dare. Sicuramente sì, senso, non esagerate, insomma, siate sempre in linea anche con le vostre disponibilità, certo. Non fatevi sempre solo abbagliare da offerte, prezzi sicuramente. Certo. L'ultima cosa, poi devo andare dobbiamo andare alla parte di cuore. Allora, lo strumento di pagamento per acquistare questi articoli, generalmente il canale televisivo in questo caso chiede la carta di credito, mi sbaglio? Ci sono anche delle modalità alternative? Sì, sicuramente, poi vabbè, sta anche al venditore decidere quali sono le modalità di pagamento. Sicuramente la carta di credito è una delle più diffuse, ma anche perché è pratica e comunque sicura, ricordiamolo, perché comunque vengono garantiti dei canali di pagamento sicuri. Ecco, accertatevi di questo anche quando fate gli acquisti su internet, che comunque il sito sia sicuro e abbia il lucchettino, abbia l'immagine del lucchettino sull'indirizzo. Però ecco, non fatevi spaventare dal pagamento tramite carta, utilizzatela anche perché avete delle garanzie. Benissimo. Allora, esatto, sì, vabbè, l'abbiamo sempre raccomandato anche quando parliamo di commercio online, devo dire, certo. Che ancora molti resistenti da questo punto di vista ci sono, ma insomma, provare per credere è sempre meglio che andare in giro con tanto contante in tasca, perché se ce li rubano non ce li dà nessuno, bene o male qualche tutela in più con la carta c'è, a parte il pagamento tracciabile. Grazie a Monica Valente di Altro Grazie Consumo, buona giornata e buoni acquisti allora. Grazie, anche a voi. Grazie. Arrivederci. Svegliarsi la mattina. Allora, passiamo. Un terzo della nostra vita dormendo, quindi sdraiati, il resto ce lo giochiamo in piedi o seduti. Allora, qual è la vostra posizione preferita e quella invece che vi manda in crisi? Fatecelo sapere. Oggi sistemiamo tutto e tutti, sedie, materassi, cuscini, piedi, gambe, schiena, caviglie, scarpe, che ne dite? Se l'idea vi piace, fatecelo sapere, chiamateci in diretta al nostro numero verde, ma seguiteci anche su Facebook e su Twitter. In studio, seduto accanto a me, a Deborah, il professor Giovanni Battista Agus, ordinario di chirurgia vascolare dell'Università di Milano, past president della Società Italiana di Flebolinfologia. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno, è sempre bello essere qui. Che gentile. Professore, quante ore passa lei seduto? Beh, questa è una bella domanda. Devo dire che a parte le ore alla scrivania con i pazienti e con i loro bisogni, che è molto bello come momento, purtroppo sono tante le ore che il personal computer ci costringe a passare. Nel mio caso penso 2-3 ore ormai ci siano. È vero che, come Nicoletta sa, poi io recupero moltissimo con l'attività fisica, appena è possibile, running, trekking, scalate, anzi, però, sono appena di ritorno dagli altipiani dell'Etiopia con bellissimi 120 km a 3-4 mila metri. Quindi, se volete delle informazioni anche sulle altipiani dell'Etiopia, quarta mattina, noi ci veramente, siamo. Esatto, l'agenzia viaggi aperta 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere anche la dottoressa Elena Parolo, che è primario di riabilitazione all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Dottoressa Parolo, finalmente l'abbiamo acchiappata. Nicoletta, buongiorno, un piacere sentirla. Si localizzi anche a lei, è in piedi o seduta? Io sono localizzata quasi sempre in piedi, la postura seduta poche ore, pochi minuti al giorno per leggere le mail, per visitare i pazienti e scrivere la cartella clinica, ma anche cerco di usare ben poco la macchina, sono una sportiva. vado spesso a piedi. Allora, un angiologo e un fisiatra, per parlare di muscoli, articolazioni, vene, capillari o, se preferite, tensioni dolorose, formicoli, gonfiori, crampi, che avvertiamo quando, per dovere o per piacere, restiamo a lunghi in piedi o seduti. Obiettivo di questa puntata è capire in che misura la posizione che teniamo per la maggior parte della nostra giornata è fattore di rischio della salute del nostro apparato muscolo-scheletrico e di quello circolatorio. Quindi 800 24 00 24, raccontateci di voi, pronti i nostri esperti per darvi suggerimenti e consigli. Stiamo seduti, troppo seduti, lo siamo per molte ore al giorno, magari alla nostra scrivania, poi quando torniamo a casa ci accomodiamo su sedie, poltrone e divane prima di sdraiarci finalmente a letto, concludendo così la nostra giornata. A farne le spese è lo stato di salute generale, lo sappiamo bene, ci sono fior fiori di studi che hanno misurato proprio il peso che la vita da sedute ha sulla nostra circonferenza addominale, sul cuore, sulla digestione, sulla postura e sulle nostre articolazioni. Ne parleremo, ma dottoressa Parolo, nell'attesa che prenda piede la moda americana che promuove lo standing desk, l'ho detto bene, Deborah? L'hai detto benissimo. E in pratica, ecco, un bancone da bar al posto della scrivania. Sì. Quali consigli può dare a chi svolge un'attività inattiva? È un modo alternativo anche questo per descrivere il lavoro d'ufficio, dato che Deborah ci ha insegnato che non si parla più di televendite. Esatto. Ma di piattaforma, come si dice? Piattaforma televisiva integrata allo shopping, ecco, online, qualcosa, perfetto, del genere. Adesso, allora, mi sono persa questa parte di scaletta. Il lavoro alla scrivania si chiama adesso, si potrebbe chiamare adesso attività inattiva. Non so se anche al professor Agus piace. Comunque, provi, dottoressa Parola, a sedersi accanto ad una persona che lavora alla scrivania e l'aiuti a salvare schiena e articolazioni. E poi passeremo dal professor Agus. Allora, le persone che stanno spesso sedute per tanto tempo assumono delle posizioni scorrette che fanno decisamente male alla schiena. Il rischio maggiore è quello di tenere la testa, il collo e il capo davanti al baricentro. Questo cosa provoca? Provoca delle tensioni ai trapezi, ai paravertebrali, dei muscoli del collo. Cosa vuol dire davanti al baricentro? Vuol dire con la testa in avanti. Quindi con il collo spostato in avanti. Questo perché magari il computer è posizionato a un'altezza non corretta, perché si hanno disturbi visivi, perché non si vede bene al computer, o perché solo perché uno è stanco di stare tante ore seduto in questo modo. Per cui se non sono poi i muscoli tonici, certo, difficilmente si riesce a mantenere la testa, il capo in posizione corretta. Lo schienale deve essere posizionato a 90 gradi. Noi siamo abituati a vedere, ma anche i nostri figli, che davanti al computer svaccati sulla sedia. Lo schienale deve essere a 90 gradi, proprio per rinforzare i dorsali e i paravertebrali dorsali. I piedi devono essere appoggiati assolutamente per terra. Ecco. Se questo non è possibile, bisogna mettere una pedana sotto. Certo. Cioè devono essere appoggiati. Tutte e due. Gli angoli tra la gamba e la coscia deve essere a 90 gradi, cioè la flessione di ginocchio è 90 gradi. Sì. E 90 gradi di flessione tra la coscia e il bacino. Insomma, gran lavoro, però, dottoressa Parolo, bisogna coscientizzarlo. Lo so, ma non è facile quando uno è seduto davanti alla scrivania impegnato in un compito. Però questo previene il mal di schiena. Ecco, allora, intanto che la dottoressa Parolo vi ha descritto un po' la posizione da tenere, quindi dove tenere il collo, le spalle, le gambe, come appoggiare la schiena, Poi inevitabilmente ciascuno trova la posizione più comoda, anche se non sempre quella più rispettosa del benessere posturale, tanto che quando ci alziamo ci sentiamo un po' arrugginiti e dolenti, no? C'è chi sente un peso sulla parte bassa della schiena, chi le dolore alle ginocchia, chi sente il collo ingessato. E allora, dottoressa Parola, se lei è d'accordo, io inviterei i nostri amici da casa a raccontarci che cosa succede quando si alzano dalla sedia o dalla poltrona o dal divano. Lo facciamo come una sorta di test. Quindi descriveteci i segnali che le vostre articolazioni e i vostri muscoli vi mandano e noi chiederemo alla dottoressa Parolo di dare una spiegazione e soprattutto un suggerimento. 800 24 00 24. Naturalmente vi invitiamo anche a raccontarci le soluzioni che avete adottato per evitare di farmi mettere KO dal lavoro alla scrivania. Avete cambiato sedia, usato un cuscino, fate pause regolari, usate delle pedane. Nel frattempo, professor Agus, occupiamoci anche della nostra circolazione e chiediamo ad esempio ai nostri amici se dopo qualche ora passata alla scrivania hanno la sensazione che un piede si addormenti oppure avvertono il formicolio, sentono le estremità fredde. Partiamo un po' dai segnali che il nostro corpo ci manda, professore, così voi riuscite a darci un'indicazione e un suggerimento. Sicuramente stare a lungo seduti in uno spazio limitato e senza cambiare posizione, magari con le gambe accavallate come faccio io, può compromettere la corretta circolazione sanguigna, perché l'immobilità mantenuta per ore, come capita non solo a chi lavora alla scrivania, ma penso anche a chi effettua un lungo viaggio in auto, rallenta la circolazione del sangue, aumentando la probabilità che si formi un trombo nelle vene delle gambe. Questo ho imparato da tante puntate che abbiamo fatte insieme. Però immagino che non basta trovarsi nelle situazioni descritte per sviluppare una trombosi, è necessaria la complicità di qualche altro fattore di rischio, professor Agus. Tutto vero, direi proprio perfetto. Ho anzi, imparato. Aggiungerei anche la femminile posizione di tenere la gamba sotto una coscia, che è molto bella dal punto di vista femminilità, ma questa posizione da gru è dannosissima per la circolazione. Perché se qui siamo a cuore e denari, il cuore della circolazione di ritorno è nel piede e quindi la difficoltà che ha sangue e linfa, cioè i nostri liquidi, a risalire verso l'alto viene complicata da gambe accavallate o addirittura quella posizione a gru che ho detto prima. In pratica tutta la circolazione deve avere un movimento comunque continuo anche quando si è statici alla scrivania o al personal computer, come si dice, perché possa essere mantenuta il flusso sanguigno e il flusso linfatico. Se ciò non avviene, si può arrivare o alla comparsa delle più benigne varici, sì, che sono brutte, che danno fastidio, ma non sono gravi, o appunto alle trombosi, che una volta si chiamavano flebiti, ma il termine trombosi è molto più preciso perché vuol dire il coagularsi del sangue dentro un vaso sanguigno, perché quel sangue non circola bene. Addirittura nel nostro ambiente specialistico si parla oggi di e-trombosis, per assonanza alle email, al tempo che si passa davanti al computer, eccetera. È una situazione che si sta sempre più verificando. Ma un'altra situazione potrei premettere, che non è che si stia solo seduti al lavoro, si sta seduti anche alla televisione. Certo. Ed è recentissimo. Ad acquistare, vedi, le televendite, Deborah. Uno è spaparanzato sul divano e tic, compra. È recentissimo uno studio giapponese dell'Università di Osaka che ha pubblicato nel 2015 gli esiti di ben un periodo lunghissimo, praticamente 18 anni, hanno seguito 86.000 persone che guardano la televisione. Ebbene, quando si superavano le 5 ore di televisione al giorno, si avevano effettivamente episodi di trombosi venosa e fin anche di embolia polmonare, che è la complicanza più grave. Certo, tutto questo avveniva in persone in cui si valutassero anche, non so, se erano in menopausa, con un body mass index, cioè il peso eccessivo, e poi l'età, più avanzata nell'età. Comunque è certo che questo studio di chi lo vuol cercare, Shirikawa, dell'Università di Osaka, ci ha dato degli alert sulla televisione troppo a lungo statici. Quindi non è solo il lavoro. Non è solo il lavoro, ma cerchiamo di quantificare quante ore passiamo seduti o quante ore passiamo in piedi. E chi passa 6-8 ore in auto tutti i giorni come me, come deve comportarsi? Ci scrive un ascoltatore. Ah, ecco, pensavo naturalmente, parlarsi di tu dici, ma dove va? Dove l'amico, va che non me ne ricordo. Sempre qua. E, dopo i mercati troverete una risposta a tutte le vostre domande. Quindi 800 24 00 24, vi aspettiamo. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti. Allora, Allora, intanto iniziamo a cambiare un po' posizione, aiuta magari per andare a comporre il nostro numero verde 800 24 0024. Localizzatevi, siete in piedi, sedute alla scrivania o in auto, chiamateci, soprattutto raccontateci anche che cosa succede col passare delle ore quando dovete tenere una posizione a lungo. Ne stiamo parlando con la dottoressa Elena Parolo, primario di riabilitazione al Bassini, e con il professor Giovanni Battista Agus, ordinario di chirurgia vascolare all'Università di Milano e past president della Società Italiana di Flebolinfologia. Pronti a rispondere alle vostre domande e naturalmente con cui parleremo di muscoli, articolazioni, ma anche di caviglie gonfie, crampi, polpacci, edema, prurito, dolore, pesantezza, formicolio, sintomi che possono essere favoriti o aggravati anche non solo da posture mantenute a lungo. Ci stiamo infatti occupando di chi passa molte ore alla scrivania, ma tra poco ci occuperemo di coloro che, proprio come gli addetti alle televendite di cui Deborah ci ha parlato nella prima parte della trasmissione, passano ore e ore in piede, commessi, insegnanti, chirurghi, artigiani, operai, solo per citarne alcuni. Intanto do subito il via alle telefonate 800 24 0024. Stanno anche arrivando messaggi su WhatsApp che leggerò nel corso della trasmissione. Intanto partirei con Maurizio da Biella, che si è prenotato per primo. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io vorrei fare una premessa che difende una categoria. Guardatevi attorno, la scrivania, il microfono, la sedia, quello che avete addosso, chi le porta? Camionisti. Certo. Le portano da voi. Parlate di tutti, meno che di noi, per carità. Scusi, Maurizio, la prendo subito in fallo, perché noi abbiamo proprio dedicato, esatto, prima di Natale, una puntata tutta dedicata ai camionisti. Ma abbiamo fatto quindi anche precedenza con il tema del lavoro usurante, che non viene riconosciuto anche come tale, quindi, ai fini pensionistici, quindi guardi, proprio ci siamo anche un po' offese. Ecco. Perché vuol dire che lei non è fedele, Maurizio. Ecco. Poi non ho seguito, magari ero in galleria al Monte Bianco. Stiamo scherzando. Allora, Maurizio, ma come vede, noi ci occupiamo di lei con grande piacere, anzi, grazie per essere con noi. Ci dica. Volevo chiedere questo. Io, che come tanti, come migliaia della mia categoria, passano 9-10 ore al giorno su un camion e non può né allungare le gambe né fare altro. Io ho 60 anni, ho l'artrosi, in questi giorni ho la tendinite. Degli esercizi, non dico mentre si guida, ma quando si sta fermi un momentino da fare qualcosa, perché veramente siamo sempre via. Guardi, io ancora un po' a mia moglie do del lei, sto sempre via, quindi mia moglie do del lei, è molto carina. Allora, intanto chiediamo subito un consiglio ai nostri due esperti, e magari la dottoressa Parolo poi magari ci posta qualche esercizio sul nostro profilo, proprio tutto dedicato a Maurizio, naturalmente ai camionisti, ma anche agli agenti di commercio, tutti coloro che passano tante ore in macchina. Dottoressa Parolo, partiamo da lei. Il problema è serio, Maurizio ce l'ha ben descritto. Certo, tutte le posture prolungate, e capisco che un camionista non possa scendere dal camion ogni ora, le gambe, e sarebbe però consigliabile scendere e sgranchirsi le gambe, fare una passeggiatina. Quando non è possibile, perché il lavoro è stressante, usurante, perché bisogna consegnare la merce, io consiglio di, durante la guida, fare delle contrazioni isometriche dei glutei, prima un gluteo poi l'altro, per 3 minuti, e nello stesso tempo contrarre gli addominali e cercare di avere una guida, se possibile, rilassata, con le mani sul volante a un'altezza di spalle, non più alte o più basse, perché questo provoca delle tensioni muscolari. L'ideale sarebbe comunque cambiare spesso posizione, per cui scendere dall'auto. Se una persona, soprattutto col passare degli anni, delle ore alla guida, ha una spondiloartrosi, un'artrosi della colonna, io consiglio di mettere un cuscino per mantenere la corretta lordosi della colonna lombare. Un cuscino dietro la schiena quando si guida. Sì. Ci sono quei coscini che sono dei sistemi posturali che servono a mantenere la corretta lordosi. In questo modo si previene un mal di schiena. Una volta tornati dal viaggio è necessario fare degli esercizi di prevenzione, che sono uno stretching della catena posteriore, un rinforzo degli addominali e esercizi di rinforzo dei glutei e del quadricipite. Quindi sostenere la muscolatura. Ma lei, dottoressa Paroli, in questi giorni ci mette, ci fa qualche descrizione con quelle immaginine degli omini, certo, che così si capisce bene? Certo, dopo, sì, certo, sì, sicuramente. La mettiamo al lavoro. Professor Agus? Beh, per quanto mi riguarda, penso che i camionisti siano piuttosto esperti nel trovare la posizione più comoda e congrua per le loro 8-10 ore di guida quotidiane. Posso aggiungere solo due consigli per la circolazione specifici. Effettivamente non si possono fare movimenti, ad esempio, di dorsiflessione del piede, perché lascerebbe il pedale, certo, della guida, ma portare una calza elastica a gambaletto, e ci sono anche per uomo adattissimi. Beh, questo già spinge ulteriormente il sangue verso l'alto e comunque evita l'edema e il fastidio. Un secondo, apparentemente non medico forse e nemmeno angiologico, ma in realtà lo è lo stile di vita. E come tutti sanno, i camionisti conoscono le trattorie migliori d'Italia e ci vanno e qualche volta esagerano. Beh, bisognerà che stiano attenti a non mettere su peso e chili, perché questo è un altro ostacolo al nostro ritorno venoso linfatico. Allora, 800 24 00 24 vi abbiamo proposto un test. Che cosa succede? Quali sintomi, segnali vi manda il vostro corpo quando state tanto tempo seduti, ore e ore alla scrivania, sul divano, in macchina, ma anche in piedi? Quali sono i disagi che avvertite? Li individueremo e cercheremo insieme ai nostri ospiti di individuare la ragione e la causa, e soprattutto, come ha fatto la dottoressa Parola e il professor Agus, di suggerire delle soluzioni. Intanto andiamo da Pietro, che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Pietro, benvenuto. Sì, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi. Praticamente i medici mi hanno risposto più o meno alla mia domanda, in quanto io faccio autista del camion. Sì, anche lei allora è sistemato come il nostro ascoltatore. Tra l'impegno, lavoro, 12 ore al giorno, siamo quasi sempre, diciamo, sul volante. Niente, ultimamente sto notando che praticamente ho mal di collo e dei muscoli e anche delle mal di schiena, diciamo, in questi, sì, ultimi giorni. Sia io che faccio autista, sia il zio Ivano che fa un gruista sulla gru. Volevamo semplicemente chiedere, anche se avete risposto, come dicevo prima, presso a poco un consiglio del sedile, piuttosto, come dicevo prima, del volante. A che altezza bisogna... Sì, sulla posizione del volante la dottoressa Parola aveva dato già delle indicazioni. Dottoressa Parola, sì, vuole aggiungere ancora un consiglio per Pietro e per l'amico gruista? Certo, è necessario avere le braccia all'altezza delle spalle, non più alte, non più basse, perché questo provoca una tensione, che c'è comunque negli autisti e chi sta tante ore in macchina, perché noi le tensioni le scarichiamo in vari modi, ma un modo comune è scaricarlo proprio sulle spalle e sul collo. È necessario, quando ci si ferma, cercare di fare delle rotazioni con rachide cervicale e delle inclinazioni a destra e a sinistra. Questo provoca uno stretching della muscolatura del collo e del trapezio, che dà un minimo sollievo al dolore. Quello che secondo me è molto molto importante è che il movimento è essenziale per la prevenzione dell'artrosi, dei dolori muscolari e di tutta quella sintomatologia dolorosa che le posture obbligate prima o poi ce la fanno scontare. Certo. Allora, adesso andiamo a sentire, a proposito di guida, che cosa, esatto, succede sulle strade e sulle autostrade. Professor Agus, ci scrive su WhatsApp un ascoltatore da Londra e voleva proprio sapere, per chi resta 10 o 12 ore in piedi, fa il cuoco, quindi teniamocelo buono, chissà mai che si vada a Londra a trovarla, e ha delle vene abbastanza evidenti sulla gamba destra, che cosa dovrebbe fare? Dopo le informazioni sul traffico, con le vostre domande e i consigli dei nostri esperti, in piedi o seduti, quali segnali vi manda il vostro corpo? Tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Cuore e denari. Ultima parte del programma e abbiamo ancora tempo per avete ancora tempo per prenotare i vostri interventi. Oggi stiamo parlando di posizioni che ci procurano disagio, ma anche di consigli per compensare, quindi tornare a stare bene. Allora, meglio stare in piedi o seduti? Quali altri suggerimenti possiamo dare? Intanto, professor Agus, in America è partita una vera e propria campagna antiseduta, dalla Casa Bianca a Google, passando per gli uffici di Facebook, si lavora alla standing desk, ossia in piedi. Ma la rivoluzione sta arrivando anche in Europa, perché tra l'altro, secondo le ricerche, lavorare in piedi, oltre a prevenire il mal di schiena, ma questo lo chiederemo alla dottoressa Parolo, dovrebbe anche salvare il cuore. Insomma, la circolazione in piedi ci guadagna, è davvero così? Sì, assolutamente. Ed è giusto il monito che in voga oggi negli Stati Uniti, che sitting is the new smoking. Che esattamente, questa è la frase. Ormai il fumo in qualche maniera è demonizzato, debellato negli Stati Uniti, e quindi ci si sta accanendo verso questo fatto di stare fermi seduti. Perché stare seduti è una cosa, stare in piedi è un'altra, e probabilmente risponderemo al simpatico ascoltatore di Londra con un'interessante risposta, io credo. Posso farla subito, certo. Perché è cuoco, è chiaro che sta sempre in piedi, però si dimentica che può muoversi. La persona che è in piedi dovrebbe, tra l'altro lui è a Londra, quindi dovrebbe imparare dalle horse guard della regina Elisabetta, quelle col bacco nero e con la giacca rossa, sì. Che pur dovendo stare sempre ferme o a cavallo o nella garritta, riescono a fare degli impercettibili movimenti sui piedi che sono di dorsi flessione, detto sì. Più alla semplicità, quello che può fare un cuoco è che può sollevarsi in punta di piedi ripetutamente. In questa maniera mette in gioco la caviglia, la dorsiflessione è esattamente il piede che va verso la gamba, mette in moto i muscoli estensori della gamba e soprattutto nel polpaccio mette in moto una specie di sistema di pistoni che spingono il sangue e la linfa verso l'alto. Questi sono i muscoli gemelli. Vedete che determinati muscoli possono essere tenuti in azione anche stando fermi in piedi. Quindi certo. È un po' un tacco punta. Esatto. Diciamo, certo. Lei come l'ha chiamata, che così voglio imparare? Dorsiflessione. Dorsiflessione. Perché il piede, Deborah, viene portato, non lo posso consigliare agli autisti, e l'ho detto, perché certo. Abbandonerebbero. Freno, frizione e quant'altro, tutti i pedali, acceleratore, eccetera. Però insegnanti, addetti alle televendite, sì, conduttrici radiofoniche che stanno sedute, perché si può fare anche da sedute questa questo tacco punta. Questo, ecco, lo consiglio a tutte le persone anziane che praticamente vivono in poltrona, e allora lì sì che esistono anche delle pedane foot mover che fanno muovere automaticamente il piede senza che uno se ne renda conto. Posso leggervi, certo, questa bella testimonianza di Francesca, perché è una giovanissima sarta, 25enne, sta 8 ore seduta alla macchina, immagino da cucire. Per ovviare a questo, da 2 mesi ho deciso di abbandonare l'autobus, faccio il tragitto casa-lavoro sempre a piedi, 3,5 km per 4 volte al giorno. Per ora però non ho avuto i risultati che speravo, visto che soffro di ritenzione idrica e capillari fragili alle gambe, anzi mi sembra che mi si stiano spostando, esattamente. Non so se imputarlo alla camminata veloce o allo stare sempre seduta. Questa giovanissima ascoltatrice dobbiamo assolutamente aiutarla. Sì. Anche perché ci sono delle ricerche che dicono che le ore se si sta tante ore alla scrivania o sedute, quindi impegnati in questa inattività, non basti fare qualche ora in palestra. Insomma, i rischi dell'inattività sono talmente elevati che l'attività sportiva deve avere delle caratteristiche ben precise per aiutare a compensare. Insomma, non bastano le 3 orette di palestra se uno poi sta 8 ore seduta alla scrivania o in piedi o comunque fermo. Professor Agus, e poi passiamo alla dottoressa Parolo. Sì, partendo da questa osservazione di studi, che peraltro è legata soprattutto agli sportivi che fanno molto agonismo e poi improvvisamente smettono, e questo è dannoso, meglio non aver fatto sport se si smette del tutto. Bene, la continuità è la parola che deve essere data al movimento, e questa ascoltatrice è sulla strada buona, però da troppo poco tempo, da 2-3 mesi sta mettendosi in riga, non usando la macchina, facendo tutto quanto. Se ugualmente le compaiono delle teleangiettasie, è che purtroppo le teleangiettasie, cioè che i piccoli vasi capillari, vengono per altri motivi che non è il movimento o l'assenza di movimento, ma motivazioni ormonali e familiari e genetiche, e quelle purtroppo non le può cancellare nessuna attività fisica ottimale. Però si possono cancellare. Sì, esatto, deve essere ottimista, continuare su quella strada intrapresa. Dottoressa Parolo, in chiusura di questa trasmissione, abbiamo per salvare quindi schiena, gambe, dare un benessere al nostro apparato muscolo-scheletrico, allora dobbiamo giocare di prevenzione, quindi rafforzare la muscolatura, lei ci regalerà poi degli esercizi, ma quali altri consigli possiamo dare a chi anche sta tante ore in piedi? Il professor Agus ha ricordato, no, l'esercizio tacco punta, spesso quando stiamo tante ore in piedi avvertiamo proprio il peso della schiena. Certo, anche perché aumentano i carichi sui dischi, mantenendo sempre una postura prolungata, che sia in piedi o che sia seduta. Per le persone che stanno tanto in piedi, mi vengono in mente le donne che stirano molto, è necessario non stare fermi sui due piedi, ma cercare di spostare il peso da una gamba all'altra, da un piede all'altro, cercando sempre di mantenere gli addominali contratti e nello stesso tempo i glutei contratti, facendo una retroversione del bacino, che viene insegnata, diciamo, quando si va in palestra o quando si fanno i corsi per il mal di schiena, che poi deve essere interiorizzata. E questo aiuta a prevenire il mal di schiena da posture prolungate. Quindi, insomma, gli addominali svolgono un ruolo fondamentale per la fanno schiena. Fanno da corsetto muscolare alla schiena. Vedi, un è il nostro corsetto muscolare fisiologico. C'è chi l'ha un pochino più lasco, un po' più abbondante, di una taglia un po', no? In più, morbido. Certo. Sì, però bisogna rinforzarli. Ecco, il corsetto deve essere bello aderente, modello tartaruga, professor Agus. No, beh, qui stiamo parlando di muscoli che sono stati messi in gioco dalla dottoressa Parolo giustamente, ma quello che emerge, forse un messaggio, è che i muscoli e delle gambe, da me citati, gli estensori, i gemelli e quelli più in alto, addominali e poi anche per il collo, sono fondamentali e bisogna usare i muscoli. Quello che non si usa si perde. Grazie alla dottoressa Parolo, grazie al professor Agus e a noi voi che ci avete seguito. Esatto, infatti, grazie a tutti, grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi per la collaborazione in redazione, Carmelo Lauricelli in assistenza tecnica. A noi si torna domani, naturalmente. Certo. Buona giornata a tutti.